Rieccoci qua, cari ascoltatori, siamo caricati con un po' di francese, perché non a caso dall'altra parte dei monti ci sta la Francia, che vive dei momenti concitati in questo momento, ma fattacci loro. Però abbiamo una notizia importante, no? Sì, Guido, sì, sono venuto qua dietro per dire che è notizia di ieri, ora nei prossimi giorni ci aspettiamo arrivi anche in Italia, per adesso esistono soltanto brevi articoli in francese di un imminente possibile fallimento della TGV, la linea dell'alta velocità del SNCF, che sarebbe l'equivalente del nostro, insomma, Trenitalia, come dire. E la TGV sta fallendo per una mala amministrazione che stava andando avanti da anni. Che cosa ha pensato di fare per correre ai ripari? Di alzare i prezzi. Questo ha portato a un ulteriore... Bravoni. Infatti pare che BlaBlaCar, dopo questo innalzamento dei prezzi, ha conosciuto il suo periodo d'oro. Corsi e rimedi la TGV riabbassando di nuovo i prezzi, hanno recuperato quel che potevano recuperare, ma adesso sembra che i margini stiano finendo, che ancora questa mala gestione stia tutta lì, e allora ci si aspetta un imponente intervento dello Stato, perché non si dà la possibilità che, insomma, l'alta velocità francese possa fallire. E quindi era per dare un elemento in più, voglio dire, mentre oggi stiamo lottando dalla parte di qua, dei monti, ecco, dell'Alpi contro l'alta velocità, dall'altra parte della Francia, dalla Francia arrivano queste notizie. Assolutamente. Ma ci sono lotte di là, i francesi, te lo sai? Si danno da fare i francesi. Si danno da fare i francesi. Dopo facciamo qualche approfondimento. Secondo me sono cazzuti pure loro. Ora sentiamo un po'. Allora, facciamo sentire una cosa che avevi portato proprio tu, no? Cosa sentiamo? 6 maggio, e poi vi diciamo che cos'è. Ah, sì, è un breve contributo audio, sta girando in rete, era girato nelle scorse settimane per lanciare la manifestazione di oggi. Lo facciamo sentire. Dai, Wombat. Sì. Monti di Montecitorio spirano i sacrifici, spira la crisi, spira questo mondo. Noi siamo un vero antidoto a tutto questo. Io sono quello che non canta ma sbraita, difendo la mia terra come chi difende Baita. Clarea, non tua vita mea, se la legge distrugge c'è una valle che crea. Ehi, un'odissea, difesa di un'idea, siamo l'onda dal basso che spinge l'alta marea. E se la strada si presenta piena di ostacoli, nessuno che ci rappresenta. E non abbiamo debiti con questi ipocriti dell'alta velocità. In bilico, dall'alto di un traliccio come Luca Ba, sopprimono i collegamenti con il meridione, puntano agli affari sporchi sulla Foriglione. Eccoci qua di nuovo. Sempre. Allora, questo quindi abbiamo sentito era un po' l'invito a partecipare, quindi ciò che era prima. Mi confermi? Ma confermiamo. Ecco, bello, accendiamola. Ne abbiamo un altro invece, un'altra cosa invece che era più lì. Sì, stiamo facendo sentire un po' di piccoli contributi, anche in attesa di poi ricollegarci e dare qualche aggiornamento direttamente dalla valle. Questo è successo un mese fa, un attacco, insomma, da parte dei militanti Notav contro dei lavori in corso in valle. Sono degli audio e video registrati, noi facciamo soltanto sentire gli audio. È una camminata, una marcia, alcuni cori cantati dai Notav mentre vanno, e infine sentiremo qualche scoppio. Sono i fuochi d'artificio lanciati dai militanti da dietro gli alberi. Insomma, è suggestivo, dura un minuto. Che ne dici? Assolutamente. Esplosione di colori e resistenza. Via. piccate sventola la bandiera dei Gotà. Questa era musica di resistenza, sperimentale. Nessun ferito, nessun contuso. No, no, fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio. A parte anche a volte ci si può far male pure fuochi d'artificio. E allora, dicevamo... noi intanto annunciamo, anticipiamo che più tardi su Radio Onda Rossa, una delle interviste che abbiamo fatto prima qui in diretta di Radio Wombat sarà ritrasmessa. Noi stiamo continuando a seguire i nostri amici e cugini di Radio Blackout, di Radio Onda Rossa, e insieme insomma stiamo cercando di raccontare, per chi non è lì direttamente, questo corteo in presa diretta. Mentre ci assestiamo un attimo sulla parte tecnica, Guido, che dici? Possiamo mandare una canzone? Stiamo sempre sul tema. Sì, sì. Un attimo, comunque intanto volevo dire che prima hai menzionato... Mi sembra giusto. Prima hai menzionato che ci sono anche quelli del NoTap su a dare una mano, che anche loro stanno vivendo abbastanza pesante, no? Ultimamente, soprattutto sgomberi, botte. E ora sto trovando, tu che pezzo volevi? Che volevi mandare? Abbiamo mandato, abbiamo sentito Elio prima, vabbè, Elio, grande. Poi i salti frontali, la Rage. Per collegarci alla Francia. Io resterei in tema il poppeggiante italiano, o anzi 99. Dai. 99 posse. Eccetto Pippi. Leggo la giù. Eccetto Pippi. Adesso mandiamo quindi 99 posse. Presentaci un po', che pezzo è? È Stop the Train, è famoso. E però questo è l'aggiornamento 2013 con un paio di voci dalla Val di Susa montate qua e là. Non ci stanno male. Sentiamo. Wombat. Sentiamo. Noi lo vogliamo il progresso, non siamo contro il progresso, abbiamo fatto fare un'autostrada che porta in Francia. Non siamo tagliati fuori né dall'Europa né dal resto del mondo. Camion li vogliono togliere dalla strada e va bene, però li possono mettere come fanno già adesso sui treni, modificando la linea vecchia. Pensando di realizzare un treno che va a 300 all'ora, ma i diritti dei lavoratori sono fermi a 100 anni fa. Parecchie imprese coinvolte nei cantieri della TAV erano vicine a interessi dei clan dei casalesi. Qui sopra questo muro ci viene una barriera alta 5 metri, così siamo sepolti vivi. Perché questi, per fare il lavoro, passeranno sul corpo dei loro genitori e dei loro figli. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa. Se puoi venire a casa mia per entrare e bussare si usa. E se non ti apre nessuno e la porta rimane chiusa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa. Stop that train. Non ci serve stata velocità.

eccetera, eccetera. Sceglierne uno e iniziare a... Sì, in realtà volevo fare un intro in generale, non le volevo accollare tutti, ma un indebitamento per 30-40 miliardi di euro per un'opera che richiede per la sola parte italiana 20 milioni di metri cubi di rocce estratte, immaginiamo come, 7 milioni di metri cubi di cemento, 1 milione di tonnellate di acciaio, senza alcuna utilità per il trasporto merci e per il trasferimento modale. E questo è l'intro che appunto porta poi alle varie, ai vari sottocapitoletti, e che ci illustrano appunto le inutilità, sebbene se ce ne fosse bisogno, di questa macro opera che ovviamente ogni volta che, no, che ci si pone contro queste grandi opere, ma non solo per la TAV, è stato fatto con tanti altri esempi in Italia. Prima si parlava appunto delle edizioni che sono, insomma, delle pubblicazioni sugli argomenti, e a proposito di questi, no, del contrapporsi a quello che viene definito progresso, poi ci sarebbe da fare un bel discorso su questo, ma comunque c'è questo libro molto interessante di qualche anno fa che si chiama Non nel mio giardino, a cura di Michele Roccato di Mannarini, che prende sul serio i movimenti NIMBY, cioè tutti quei movimenti che dal NOTAV, ora per estendere un po' il discorso, si sono contrapposti allo sfruttamento selvaggio del territorio, con il pretesto appunto del progresso, quindi NOTAV in Val di Susa, no ponte in Sicilia, no discariche a Napoli, no dal Molino a Vicenza, sono solo alcuni dei movimenti sempre più presenti nelle cronache locali e nazionali che si confrontano, con cui si confrontano appunto la politica, ma anche i comuni cittadini, e appunto vengono sempre tacciati alla fine di essere contro questo progresso. Ora io ultimo anche qui da noi, esatto, nella Piana. Esatto, è stato fatto poi in Mugello proprio per l'alta velocità, è una delle battaglie più, purtroppo più ignobili e purtroppo poco sostenute, quella del Mugello, e quindi appunto, no, nel mio giardino fornisce una lettura nuova e articolata di tutti questi movimenti di protesta che, come vi dicevo, vengono spesso tacciati di essere contro il progresso, come se il progresso appunto poi nella sua accezione generale fosse automaticamente positivo, fosse automaticamente a pro del popolo. Quasi mai lo è stato nella storia. Ora io sono... diciamo che non è per forza sinonimo di tecnologia. No, io sono ovviamente una luddista, quindi in questo purtroppo mi pongo già male, però ora, senza arrivare agli estremi, progresso è una parola che viene usata per far passare molto molto altro, e comunque appunto ci si deve fare delle domande su quanto costa il progresso e soprattutto quanto costa il benessere. Cioè, se voglio essere in un posto e metterci cazzo mezz'ora invece di un'ora e mezzo, certo questo mi costerà, ovviamente spesso in termini di impatto ecologico sulla salute. Ma infatti c'è modo di fare progresso anche in modo chiaro, è sostenibile, ecosostenibile, anzi. E poi anche se non c'è, allora anche no, nel senso, io sono anche per rispettare i limiti poi di, soprattutto ecologici, economici, insomma. Sì, poi il punto è anche di cosa si vuole ottenere. Poi il territorio dove vai a fare questa grande opera. Appunto, a chi ne soffrirà e a chi darà beneficio. Chi subirà le conseguenze. Esatto, poi. Perché poi anche questo aspetto, come c'è scritto anche qui appunto in queste 150 ragioni di Fab, è il famoso aspetto del dare lavoro, no? Che i cantieri danno lavoro, si è capito, danno lavoro, però poi bisogna vedere poi quali sono i costi. Poi, esatto, appalti, lì poi lasciamo perdere. Quindi insomma molto interessante, se non ne bastasse una, 150 ragioni per il NOTAV. E ci sono aggiornamenti? Sì, io da qua dietro volevo, a proposito di numeri, darne così un po' baritonale che gioco su. A proposito di numeri, volevo confermare che sono più di 10.000 insomma i partecipanti, secondo le ultime notizie che ci arrivano da là. Paiono esserci più di 10.000 persone che stanno per, fra l'altro, cimentarsi in un bel pranzo benefit organizzato dalle popolazioni terremotate di Amatrice insieme alle BSA. Ecco. Si mangerà amatriciana in Val di Susa per rinfrancarci dopo il corteo. Amatriciana a merenda in Val di Susa. E ci saranno comunque poi anche interventi da vari comitati e delegazioni che stanno partecipando. Ci sono i NOTAP che abbiamo menzionato prima, popolazioni terremotate dalle Marche, da Macerata, il comitato No Grandi Navi di Venezia, il comitato contro la tratta Brescia-Verona dell'alta velocità, e soprattutto perché poi questa è anche l'occasione di rilanciare una manifestazione, ci sarà il comitato No Terzo Valico, che farà un intervento e rilancerà anche una manifestazione che si sta organizzando ad Alessandria il 27 maggio alle ore 15, do anche le dritte precise, davanti al teatro comunale. È per l'acqua e per la salute l'appello della manifestazione contro il terzo valico, una battaglia che già sappiamo insomma quanto bene e necessariamente si intreccia a quella sulla TAV. E niente, a proposito comunque di libri e letteratura, volevo anche dire, già che ci sono, che certo, prima parlavamo del Festival di Letteratura Sociale e delle presentazioni che ci saranno. Lo scorso anno era venuto Wu Ming 2 a presentare Il Sentiero Luminoso, il seguito del suo primo libro Il Sentiero degli Dei, che sono due libri che percorrono dei camminamenti a piedi da Firenze a Bologna e poi da Bologna a Milano lungo il percorso dell'alta velocità, cercando di far, e delle autostrade, facendo vedere quanto queste grandi opere significano davvero un impatto potente all'interno di un ambiente geografico di un certo tipo, e come poi in effetti fra Firenze e Bologna si è bucato tutte le montagne, si fanno 3 km di superficie per guadagnare cosa, 10 minuti insomma di tempo. Talvolta l'inutilità delle grandi opere insomma è chiara, e viva questi reportage, questi insomma approfondimenti che talvolta escono. Ne volevo approfittare soltanto per rilanciare su questi due libri, per chi non li avesse letti sono interessanti, insomma parlano anche di questo, di altre tratte dell'alta velocità, quella mugellana e poi padana verso Milano. Grazie, grazie mille. Ho portato anche una canzone, Sei bravissimo. E poi mi metto là dietro. La chanson? La chanson, ma ce l'hai là? Sei, ti sei già attrezzato? Maybe. What are you... Ho portato la banda Bassotti. Eh sì, che c'è, viva. È tranquillo. Ce l'abbiamo. Allora, Notav della banda Bassotti, Wombat. Vi abbracciate, ma l'amianto fa male, non diteci stronzate, il primo sondaggio lo fanno sopra la testa della gente, ma niente da fare, neanche uno che si arrende. Lo Stato garante manda i suoi soldati, ma noi non ci arrendiamo, qui ci siamo nati. Noi

e la cosa assurda ancora di più è che è sfruttata al 30%, e per cui stanno pensando di levare la tratta perché nessuno la utilizza. Cioè, la linea attuale TGV ci metterebbe 12 minuti di più del futuro TAV, per cui non è proprio questa grandissimo cambiamento che ci sarebbe, e soprattutto evidentemente tutte le stime fatte dai vari tecnici della TELT, che prevedono una richiesta e un flusso di persone incredibile su questa tratta, evidentemente si scontra contro la realtà, che vede il fatto che appunto questa linea di Cevero stanno addirittura pensando di chiudere per quella che ho utilizzato. Beh, probabilmente la salveranno con i soldi nazionali. Sicuramente. Ma scherzi. Bene, grazie. Hai qualcos'altro? Se no ti ringraziamo davvero. No, un abbraccio a tutti e a tutti, ci vediamo in giro per strada. Assolutamente, noi siamo con voi e... Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, buon appetito. Ciao. Bene, ottimo aggiornamento, direi. E... Un ottimo aggiornamento. No, sì. Insomma, stavolta lo schiavo si è dato da fare, ci ha trovato qualcuno insomma, che sapeva un sacco. Che di non cose. È lui, comunque è sempre grande. Bene quando non è lui. Lui nel frattempo utilizza questo tempo per fuggire. Già lui sappiamo. È fuggito. Lo so, secondo me è fuggito nei tombini. Esatto. Nei tombini. Di sotto, perché comunque come... gli scavi, capito? Come ci raccontano Tommy e gli onesti cittadini. Esatto. Il vecchiosino, sai, se ne intende di cunicoli e posti umidi e bui, e sfrutta appunto il momento in cui noi così insomma occupiamo un tempo parlando con gli altri per fuggire. Questo è stato un documentario. Questo il è selvaggio, esatto, come i Banksy, no? Exit through the gift shop, exit through the tombini, Gino invece che Banksy, e gli ho voluto bene comunque parecchio. Ciao, la verità. Noi tombini, Tommy. Ah, ma mi ci trovo quando torna, guarda. Aspetto qui al varco. One bat. Ok. Spegni le macchine. Nei tombini andiamo, nei tombini. lo hai detto tu che siamo fratelli. Io? Chi lo conosce? È il Signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso! Heart travels in every where you go. The times are harder than ever been before. You know that people they are drifting from door to door, but you can't find no heaven. I don't care where they go. People, if I ever can get up off of this hole, heart-killing flow, Lord, I'll never get out this low no more. When you hear me singing this song, lonesome song, people, you know these hard times can't last us so long. These hard times gonna kill you, just dry long so. Mm-hmm. E rieccoci qua. Yes. Questo era il treno pazzerello. Il treno pazzerello dei Black Sabbath. Sì. Quindi cioè, già l'aveva previsto Ozzy. Ozzy è un ragazzo un po' così, diciamo, c'ha un'alimentazione strana, sì. Si perde un po' per strada, però un sacco avanti. Forse vede il futuro. Sì, forse non vede quello che sta succedendo, ma il futuro lo vede di sicuro. E comunque, bene o male, sta meglio di noi. In ogni caso... Andando sul cartaceo, invece. Meglio del non so. Invece sì, che onirico. Sì, invece che onirico, in realtà... sul documentario, perché abbiamo dato un po' di titoli di libri, sul NoSav, volevamo dare un po' di titoli di documentari. In questi anni sono usciti... diversi documentari a cura sia di, insomma, dei militanti NoSav, di chi si è accollato questa lotta negli anni, e sia anche un po' più così, un po' più istituzionali, così un po' più giornalistici vari. Uno dei primi, chiaramente, Fratelli di Tav, e noto notissimo, insomma, ai più, dato in diverse occasioni, insomma, molti luoghi liberati lo proiettano spesso, anche ultimamente mi sembra, insomma, in diverse iniziative. Ecco, questo è uno dei, mi sembra andato anche addirittura, ha partecipato anche a qualche festival di film indipendente, proprio di docufilm, perché è uno dei migliori, insomma. Quindi interessante, ci sono scoperto, cercando un po' appunto, che ci sono anche diversi documentari sul NoSav fatti da altri paesi, quindi dalla Francia, dalla Spagna, perché poi anche la Spagna, i Paesi Baschi hanno avuto un movimento NoSav piuttosto forte. Mi ricordo infatti in Valle incontrai c'ho ancora la bandiera dei NoSav baschi, perché c'hanno anche loro appunto... Chiaramente baschi. Ovvio, certo, lì è. E un altro molto interessante, Giù le mani dalla nostra terra, un altro titolo, ecco, sempre per tornare in tema. Vabbè, via via ne trovo altri, ma sicuramente Fratelli di Tav è uno da non perdere. Sì, dei migliori da non perdere. Abbiamo sentito poi appunto quest'ultimo collegamento che ci diceva che il corteo in realtà è finito, sta finendo ufficialmente, poi in realtà la gente sta via via. Beh, 10.000 persone ci mettono un po'. Sì, via via. E quindi 10.000 abbiamo detto. Ma dice confermato. Su, circa 15 la questura. Attenzione. Alle 15 erano 10, ora sono 15.000. No, stasera saranno 1.000, magari. Ora stanno mangiando la pasta, meno male, preparata dai compagni, dalla matriciana, giustamente, dalla matrice, dalle BS che hanno organizzato, giusto, quanto ho capito, sono sì, loro. E i comitati dei terremotati. Sì, dei terremotati, perché appunto i soldi per la TAP ci sono, ma quelli per aiutare i terremotati no, non si sa come mai, niente. E quindi insomma è andata bene, è una giornata positiva, da quanto ci hanno detto. Interessante anche questo aggiornamento sugli spostamenti dei cantieri, perché alla fine si rimane sempre un po' indietro se non si vive lì, non si sa, ovviamente, se non si è aggiornati continuamente. Ci affidiamo ai nostri media, esatto, ciao. Esatto, e neanch'io per prima non avevo capito questo spostamento, insomma, che c'è questo spostamento dell'attenzione anche un po', insomma, sui cantieri, ed è perché appunto il corteo oggi aveva attraversato questo percorso specifico, proprio perché, come ci diceva prima il compagno in diretta, c'è un po' un rivoluzionamento, stanno provando ad andare avanti, e quindi per giustificare poi le spese, per giustificare devono tenere aperti i cantieri e devono continuamente giustificare i lavori, e quindi adesso tutto si è un po' spostato, appunto questo interporto, quello che prima era l'interporto, a quanto ho capito, adesso diventa una delle basi maggiori di lavoro. E oggi appunto il corteo ha seguito proprio per questo percorso, proprio perché il futuro centro dell'azione lui diceva, esatto. Appunto sono diversi, no, i fronti di sì, lotta. Però appunto quello che prima era un po' individuato, Occhiomonte, esatto, eccetera eccetera, adesso è spostato un po'. Poi diceva dell'autostrada, lo svincolo, anche esatto, il tribellone. Ma sì, perché poi appunto da lontano non ci si rende troppo conto, ma chi vive la lotta giornalmente, appunto lui ricordava degli appuntamenti, addirittura non sapevo, loro tutte le settimane fanno il pranzo davanti ai cancelli, non me lo ricordavo, quindi al di là degli appuntamenti un po' episodici, dei cortei nazionali, insomma è la realtà che si vive la valle, se la vive come una lotta quotidiana. Certo. C'è da dire che poi tanti compagni sono andati proprio a vivere là, a viversi questo territorio, quindi la lotta notava ha portato poi anche a uno spopolamento in un certo senso, per, insomma, perché tante terre sono state tolte, espropriate, però paradossalmente poi a un popolamento di resistenza, no? In un certo senso. Certo. Quindi insomma, la lotta notava è interessante proprio perché molti compagni hanno proprio deciso di radicare la propria vita, di spostarsi, di vivere la lotta quotidianamente, e quindi insomma c'è da dire questo, che non è una lotta soltanto per chi è nato in valle o per chi vive lì, anzi molto spesso è stata una lotta sostenuta e vissuta anche grazie a tanti che sono andati a vivere in quelle zone e quindi che resistono ogni giorno. Vogliamo dare un... ti vedo prendiamo il tuo libriccino, sì, magico. Il libriccino magico, e poi in realtà mi è stato fornito. Vabbè, non è meno importante e denso di contenuti. No, infatti, è un po', appunto, un po' datato, però sempre interessante, proprio per come è fatto, perché secondo me quando si parla poi di resistenza in valle quasi mai ci si rende conto dell'impatto effettivo, no? Delle nocività e dei numeri che effettivamente poi influiscono sulla vita quotidiana, cioè andare una volta ovviamente a un corteo che aiuta e si sa, però poi chi vive lì, che ha vissuto questi anni, ha vissuto una repressione forte comunque direi, sulla propria terra. Ricordiamo le immagini proprio, sì, di guerriglia, esatto, nel bosco. Proprio, sì, esatto, non troppo lontani insomma. No. E ricordiamo anche appunto fino agli ultimi arresti e i compagni che ancora stanno vivendo la repressione per le lotte che hanno fatto in valle, no? Poi ci sono tanti livelli chiaramente, però di fatto i lavori si fermano poi con la contrapposizione, con la lotta diretta spesso, quindi ringraziamo chi se l'è accollata assolutamente e sosteniamo. Lei ha un pezzo che vuole... Io ho diversi pezzi, la vedo allora pronta. Te li motivo in questo modo. Bene, lo vedo sul pezzo. Certo, assolutamente. Sui pezzi. Sui pezzi. Ne ho due, ne lancio due di seguito e li, sì, lanciamo, perché vogliamo mandare un po' una macumba a questi, chiaro, che fanno i progetti. Quantomeno delle cattive vibrazioni. Esatto, le cattive vibrazioni. Quindi prima un Jackson Pollock con Voodoo a Dolce. Grandi, Jackson Pollock recentemente in Firenze. Io sono una fan, sono una super quindi fan, li saluto. Anche piacciono per... molto. Esatto, proprio perché ci piacciono molto li mandiamo. Sì. E subito dopo ancora più vibrazione negativa, Macumba for You, che arriverà subito dopo. Chiaro, grande Guido. Wombat. We'll be right back. Non si passa, ce lo dice anche Gandalf. Oh, vedrai, tu non puoi passare, e chi, a chi, vabbè, niente, chi ha orecchie alleati, per intendere attenda. Attenda, sì, certo, attenda, aspetti, perché non si sa mai. No, niente, oggi è andata così. Allora, ragazzi, oggi abbiamo come alleati, oggi Osborne, Gandalf, e ora aumenteremo Gandalfone, il nostro esercito. Poi, insomma, piano piano. E 10.000 persone in Val di Susa. Sì, e ovviamente lo schiavo, che anche se tenta la fuga, è obbligato a essere obbligato, diciamo, è un aiutante obbligato. Sì, volevo dire che prima non ho detto, tremenda, veramente personaggio inconcepibile, non ho detto gli autori di Fratelli di Tav, che sono Manolo Loppichini e Claudio Metallo, che hanno realizzato appunto questa video inchiesta sull'impatto della linea Tav, non solo in Val Susa, ma su tutta la penisola italiana. E ecco, che combina il racconto delle lotte popolari ad una spinosa inchiesta sui rapporti tra criminalità organizzata, imprese e corruzione politica, rapporti appunto ad alta velocità. E questo ovviamente ve lo consiglio per chi non l'ha visto, da rivedere per chi l'ha già visto. Un altro taglio interessante, meno appunto, più così, più giornalistico, ecco, un altro documentario, si chiama La Valle Mia, che è uno speciale realizzato dal Servizio Pubblico su ciò che accade in Val di Susa dall'inizio del 2012 a oggi, e no, quindi non è un documentario sul movimento No Tav, ma un riassunto sulle ultime fasi della lotta. Mi dicono ben fatto, io non l'ho visto, e tutto questo e molto di più lo potete trovare sulla sezione documentari del sito No Tav, che ospita anche altri approfondimenti interessanti, per esempio un'analisi costi-benefici della Tav Torino-Lione, insomma riporta appunto anche il libretto che avevamo noi, Una grande opera inutile, 150 ragioni contro la Torino-Lione, e altri documenti tecnici, testimonianze per chi si volesse documentare in maniera un po' più seria sul No Tav, non solo nei giorni, ecco, non solo nel giorno non solo Meso, qui vabbè, non avete idea di cosa succede, è meglio che non ce l'abbiate, quindi non solo, la lotta non è un giorno l'anno, ma è tutti i giorni, tutto l'anno. Assolutamente. Ti è piaciuta così? Assolutamente. Veramente ok. E per saltare di palo all'alta tensione in frasca? Di palo... Vada, guardi, vada pure. No, guardavamo prima le foto dei Jackson Pollock, che sono sì, un gruppo veramente notevole. Sì, sì. E che suonava l'altro giorno al Kulanka con dietro. Con dietro, Adam, ma ce l'ha io gli ho fatto sta foto. Notavole. Notavole. Ah, bellissimo, notavole. Ah, vabbè, ma qui, ma qui abbiamo un'esperta. Qui c'è delle finestre, la class proprio. La class non è la class letteraria, è di una classe letteraria notevole. Sì, sì. E, bene, grazie per queste perle, grazie mille. Grazie mille, lei è veramente, sì, veramente generosa e umana, oserei dire. E sì, Jackson Pollock, no, sosteniamoli e poi se c'è verso la mettiamo la foto sul... qualche social della radio, che è orrenda, fatta col telefono, Palizer, però certo, molto carina con lei che suona sotto la bandiera notale. Che canta e suona la batteria, attenzione, canta, suona la batteria. Canta e suona la batteria, cioè, una cosa impossibile. E soprattutto è raro per le femmine, perché in questa società, sì, come lei sa... Io, sì, lei o io? Lei, come lei ben sa, certo, io le do del voi, perché certo, la rispetto. Rispetto. E... Poche bimbe riescono a imporsi sulla scena musicale, insomma, con strumenti diversi dalla voce. E invece, scusa, questo è un mio pallino, c'ho sto problema io, femminismo nel rock, è una cosa mia. No, è una cosa giusta. È una cosa mia, da anni ci ho fatto. E già che lavorone. Ci siamo, io vorrei intraprendere un po' una campagna per... i poveri bassisti che vengono sempre tenuti in disparte, anche. Ecco. Cioè, però è a volte anche un po' colpa loro. No, ci no, si assolutamente mettono, no, non sei d'accordo. No, non si automettono un no, po'. No, è proprio la società che ci mette le immagini della società. È vero, è vero. Vabbè, è un po' così. È vero. Allora, bassisti e ragazzi alla batteria, dategli forte, noi ci piacciono molto. E come sempre, a fianco delle minoranze. Anche musicali. Ecco, perché sto mettendo sempre la solita cosa. Sto andando così. Assolutamente. Qualcuno vai avanti e blatera. Perché vedi? Ho copiato la musica sbagliata. Benissimo. Comunque volevo dire che... Blatero di qualità, per favore. Sì, vabbè, sì, ci provo. Faccio qualche po'. Grazie. È sempre carino. Veramente vorrei vedere lei, guardi. Vabbè, allora, dopo sono stata offesa, vilipesa e... Cioè, me ne vado! Adesso me ne vado e quando me ne vado voglio chiudo vedere... qui! Butto le cuffie con gesto di stizza e voglio vedere come se la cava lei. Allora, io me la cavo afferrando il mio mazzo di chiavi e prendendo The Black Keys. Tetra rap. Dai. Why are we at the playground? Because I told Patrick we're gonna meet up. Do I have to play with his son? Yes. But he smells like ranch dressing. And just, I don't know, hold your breath or something. Go play. Hey, man. Hey. We'll be right back. We should go break this down. talking and she's funny. You got the hold on. You got the hold on. Ah, dovremmo avere dei fucili per cose di questo tipo. Eccoci qua, eccoci. Fucili. Noi sia ben chiaro. No. Ma scherzi. Allora, rieccoci qua, siamo un po' insomma, siamo a fine di questa diretta. Lunghissima diretta. E niente, è finito il corteo, abbiamo parlato ampiamente di tutto ciò che cos'è il Notav, dell'opera, quali sono i progetti futuri, quali sono i danni già arrecati. E quindi siamo anche un po' stanchini dopo Bobasta. Tutto questo parlare, questo sentire musica che ci fa gioire ma ci fa anche stancare. Ma non si stanca Radio Wombat, che continua a trasmettere, e altre trasmissioni in palinsesto che per oggi si sono fermate. Cos'è che abbiamo perso oggi? Non c'erano... No, cioè alle 22.30 c'è Tonight Alive, però... ci sarà, quindi ci sarà stasera. Sì, alle 22.30 ci sarà Tonight Alive stasera. Sì. Stasera ci sarà, sì. C'è sarcasmo questa calda. Riemergo dalle catacombe per confermare questa cosa, sì. Quindi ci mi sarà, raccomando, rimanete sintonizzati, quantomeno sintonizzatevi alle ore 22.30. Restate sintonizzate, assolutamente. Se no, che wombat siete. E, senti, cosa facciamo? Raccontiamo un po' Gli eventi, altri eventi speciali che ci saranno su Radio Wombat, altri momenti in cui, come oggi, straordinari, in cui la Wombat si interromperà le trasmissioni regolari per trasmettere appunto qualche evento speciale. Quale ci sarà? Il prossimo grande evento sarà il Festival di Letteratura Sociale, che si svolgerà in Polveriera dal 18 al 21 maggio, e per quindi 4 giorni, 4 pomeriggi e anche la sera, Radio Wombat trasmetterà quasi tutto il festival in diretta. Quindi ci saranno le nostre voci ad accompagnarvi durante questa bella esperienza. E che si alterneranno alle presentazioni, alla diretta delle presentazioni e degli incontri che si terranno. Sono 4 giorni belli, belli pieni, quantomeno dalle 3 alle 8 di ogni giorno ci sono presentazioni di riviste, riviste autoprodotte come Ruggine, come Qui e Ora. Ci sarà la nuova rivista letteraria edita da Allegre, presente anche l'anno scorso. Ricordo la presentazione, l'anno scorso era su temi dell'utopia. Quest'anno invece, siccome ricorre il centenario della rivoluzione d'ottobre, il tema sarà proprio sulle parole, sulle parole della rivoluzione. Molto interessante. Vabbè, in realtà niente, non vi sto a fare l'elenco di tutte le cose che ci saranno, perché sono appunto 4 giorni belli, belli pregni, ma vi rimando al sito. Il programma è già uscito, è già online. Già spam. Sia sul blog della Polveriera Spazio Comune, cioè la polveriera blogspot, no, com'è? La polveriera.blogspot.it. Esatto. Nonché sulla pagina Facebook relativa, c'è anche una pagina apposita proprio del festival, su cui nella quale vengono aggiornati e pubblicati vari contenuti riguardo alle cose che accadranno. E quindi niente, poi vedrete sul nostro sito, su wombat.noblogs.org, troverete scritto l'annuncio quando ci sarà tutte le informazioni utili, tutte le informazioni del caso. Dopodiché, sì, non lo so, per l'appunto vedrete che l'immagine che è stata scelta da quei creativi che hanno organizzato il festival è per l'appunto una foto abbastanza famosa un incidente ferroviario avvenuto nel 1895 alla stazione di Parigi. Come si chiama? Montparnasse? Diciamo che si chiama Montparnasse. Fra noi e noi la chiameremo così. La foto l'avete presente della locomotiva che ha sfondato la facciata della stazione. A quanto pare perché il macchinista, essendo in ritardo di 9 minuti, potevano essere 12 minuti di ritardo, ma erano 9 minuti, ha sparato il treno a tutta randa e non è riuscito a frenarlo, era talmente veloce, era così alta la velocità. Certo, non c'era la TAV, treno, per cui... Che è tratta dritto, ha sfondato le barriere di contenimento e è fendato di sotto dalla facciata della stazione. Cosa particolare, non è morto nessun passeggero, fortunatamente possiamo dire, ma ha purtroppo ucciso la moglie dell'edicolante che si trovava nel marciapiede antistante alla stazione. Un pezzo della stazione è crollato sopra l'edicola e ha ucciso questa signora che era, per l'appunto, sostituiva per quel giorno il marito. Quindi sfiga delle sfighe, sì. Accidente all'alta velocità. Bravo. E, niente. Boh. E quanto ci misero a ripristinare? Ah, altra simpatia, dati i mezzi dell'epoca per rimuovere la locomotiva, impiegarono ben 4 giorni. E che è stato trovato simpatico da parte degli organizzatori del festival, proprio per il fatto che anche il festival durerà 4 giorni. E non che volessero inneggiare a cosa, non che volessero sì, identificarsi con questa locomotiva che ha sfondato, però insomma, simpatia, portami via. Va bene, quindi mi raccomando, venite. O se no ascoltate su Radio One, andate. Sì, giustamente, andate. No, dico venite perché ci sarò sicuramente, quindi andate. Ci sarà Radio Wombat, no, ascoltate Radio Wombat che vi farà sentire ogni cosa. E qui ci salutiamo e ci lasciamo con un pezzo. Cosa ne pensi, mastro regista? Guarda. Allora, pensavo a me l'onore, eh? Allora, pensavo di chiudere qui con Ben Harper che ci dice di fare le nostre mani cambiare, e quindi come gli amici in Val di Susa sono andati là e cambiano un po' la questione, ce lo dice Ben Harper, noi ci crediamo. Niente, Wombat sempre e comunque. Wombat. Change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. Make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race.